Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di globalità, di economia globale, di prospettive sullo scenario mondiale e lo facciamo con Vito Monte. Buonasera Vito Monte. Buonasera. Vito Monte è un economista, dirige il Centro Studi Monte Family Office di Lugano, società di gestione del risparmio che, come dice il nome, è stata da lui fondata e diretta, è un consulente finanziario, si occupa di gestioni patrimoniali, ha quindi a cuore il futuro di tutti coloro che affidano i loro patrimoni per la gestione. Ha anche un osservatorio particolare, appunto detto di Lugano, è svizzero e quindi vive e lavora in Svizzera, anche se ovviamente un'attenzione a 360 gradi come deve essere sullo scenario internazionale. E parliamo con Vito Monte perché è autore del libro L'incognita europea tra equilibri precari e sostenibilità planetaria, un libro edito da Mimedis con una prefazione di Elio Silva, collega del Sole 24 Ore. Allora Vito Monte, l'incognita europea tra equilibri precari e sostenibilità planetaria, ci sono più, diciamo, difficoltà, più squilibri che equilibri, in questo senso appunto equilibri precari. Se è possibile dare un'idea in poche parole dello stato del mondo, come lo definirebbe? Diciamo che lo stato del mondo è, come dice giustamente il titolo, in una fase di equilibrio estremamente precario e l'Europa è un'incognita all'interno di questo equilibrio. Perché mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti hanno, almeno per ora, preso una linea soprattutto per quanto riguarda la politica monetaria, la stessa cosa in parte ha fatto il Giappone perché ne ha la possibilità di farlo, altre realtà tipo la Cina e la Russia sono in grado di prendere determinate decisioni per rispondere alle loro esigenze in un sistema globale. L'Europa, che è comunque una delle regioni al mondo con il più alto grado di consumatori ricchi, resta un'incognita a causa della sua precarietà politica e credo che questo è l'aspetto sottovalutato dalle analisi geopolitiche attuali, cioè difficilmente geopolitiche ma anche economiche. Mi scusi, sì. L'Europa ha comunque una banca centrale che si comporta in linea con quanto fanno le altre banche centrali degli altri grandi paesi, gli Stati Uniti, il Giappone, la Svizzera, la stessa Gran Bretagna che ha peraltro i suoi problemi. Quindi in questa prospettiva l'Europa però gioca la sua parte. Diciamo che l'Europa ha giocato la sua parte, fa parte del sistema coordinato tra banche centrali, perché penso che dopo la crisi del 2007-2008, in particolare dopo il 2009, c'è stata una forte e c'è comunque una forte dose di armonizzazione tra loro. Il problema è che l'Europa ha solo la banca centrale, quindi non ha un sostegno chiaro in ambito politico. Se in questa prima parte bastava il sostegno della banca centrale perché si è trattato di utilizzare la leva monetaria per uscire dalle sacche della crisi, adesso bisogna andare oltre e sono proprio le banche centrali che continuano ad avvisare i governi che non possono continuare così, che adesso bisogna entrare in un ambito di politiche strutturali e bisogna farlo in fretta. E ecco, qui l'Europa si trova un po' spiazzata. Lei infatti scrive nel suo libro: gli annunci di Draghi per ora hanno salvato l'euro, ma sono annunci. Per riuscire nei suoi obiettivi la banca centrale europea ha bisogno dell'aiuto delle altre banche centrali, non potendo per ora lanciare un vero quantitative easing, ha bisogno di beneficiare di quello degli altri. Quindi l'Europa è in pratica una realtà zoppata, Vito Monte. Sì, boh, questo l'ho scritto prima che Draghi lanciasse il quantitative easing europeo. Ah, ecco. Il problema è che il quantitative easing europeo è arrivato un po' tardi, molto probabilmente, e adesso fa fatica. Ho anche l'impressione che le voci che circolavano qualche giorno fa o la settimana scorsa che questo quantitative easing potrebbe venire ridotto sia anche un ballon d'essai per far capire anche al mondo politico che non possono basarsi solo sull'opera delle banche centrali, che la politica deve intervenire. Quello che ho letto era un piccolo brano di un articolo del 2014 che aveva come titolo Bolla in divenire. Poi la bolla non c'è stata, ma è ancora in divenire? Secondo me sì. Cioè, diciamo che le politiche delle banche centrali hanno inflazionato gli asset finanziari e continuano ad inflazionarli. Adesso però ci si rende conto che stiamo arrivando al limite di questo tipo di politiche, che bisognerà passare su degli interventi di carattere strutturale nell'economia reale. L'ultimo G20 ha dato dei segnali in questo ambito e per compiere questo passaggio ci vogliono degli interventi a livello politico. È qui che arrivano le grosse difficoltà, soprattutto per quanto riguarda l'Europa. perché la Cina lo sta facendo, l'America in parte lo ha fatto, il Giappone si sta preparando a farlo, ma in Europa questo è particolarmente difficile, soprattutto per gli scontri interni tra i vari stati. Ecco, passare all'economia reale è indubbiamente una bella prospettiva, però l'economia finanziaria dovrà giocare il suo ruolo in questa fase in cui c'è un pericolo appunto di bolla sul mercato azionario, gli interessi sui titoli obbligazionari sono a zero se non sotto zero. Cosa fa un gestore di patrimoni, Vito Monte? Cosa fa? Si preoccupa innanzitutto e poi diciamo che l'unica cosa che può fare è cercare di diversificare, cioè in ambito azionario stiamo vedendo c'è stato un passaggio settoriale verso i titoli ciclici, segno che il mercato forse vuole scontare questa prossima politica, ma probabilmente è prematuro. In ambito obbligazionario cerca di essere estremamente prudente, perché è proprio lì che vediamo i rischi maggiori. Ecco, un'altra parola che lei usa appunto, a parte dopo quella degli equilibri precari che abbiamo visto delle difficoltà politiche, è la parola sostenibilità planetaria. Cosa intende per sostenibilità planetaria, Vito Monte? Ecco, guardi, credo che questo sia il tema principale e la fonte di ottimismo. Abbiamo avuto prima della Guerra Fredda la lotta tra il comunismo e l'economia capitalista liberale, ha vinto probabilmente l'economia liberale. Oggi questo paradigma non basta, non è sufficiente, anzi rischia di essere pericoloso, come è stato dimostrato nel 2008. Il concetto di sostenibilità credo sia non solo un concetto economico, ma diventerà un punto di riferimento politico. A lato delle necessità di salvare l'ambiente, si stanno creando dei movimenti che hanno una connotazione politica, cioè si può uscire se si rilancia un tipo di economia diversa che preservi l'ambiente. E questo credo che è molto più avanti nella realtà dei fatti di quanto noi comunemente pensiamo, ed è la nota di ottimismo, tra virgolette. L'ultimo G20, se lei guarda il comunicato, non ha avuto grande successo sui media perché non hanno preso decisioni immediate, però se va a leggere le 48 posizioni che sono state individuate, una buona fetta di queste riguarda la sostenibilità. Ecco, lei dice appunto anche in conclusione del suo libro che c'è un problema e anche soprattutto un'opportunità di passare da un concetto di sostenibilità che riguarda soprattutto le scelte politiche a un concetto di sostenibilità che riguarda anche le imprese, le singole imprese, la responsabilità sociale delle imprese, una responsabilità sociale di cui si è parlato molto, si parla spesso, da tempo, però per tradurla in fatti concreti forse non si sono ancora visti dei risultati. Cosa pensa della responsabilità sociale delle imprese, Vito Monte? Ma guarda, io andrei oltre, perché ci sono tre aspetti. Responsabilità sociale, c'è il lato ambientale, come le aziende si pongono per rapporto all'ambiente, e c'è la governance delle aziende. È nata una sigla che si chiama ESG, che in inglese riassume queste cose, e che lei trova oggi come strumento per misurare la sostenibilità o perlomeno gli sforzi che le multinazionali, che le aziende quotate e non fanno per mettersi in linea. Quindi qui c'è un miglioramento di fatto che avviene. Se lei investe in una società che ha dei criteri di sostenibilità alti, quindi vuol dire che spende di più per la socialità, spende di più per inquinare di meno, spende di più per il personale perché vuole evitare che ci siano rotazioni, eccetera. Quindi una società ben gestita e riesce a fare utili in passato, ne ha già fatti tanti e continuerà a farli, lei ha un'indicazione di un ottimo investimento, cioè investire in una società che ha criteri di sostenibilità le permette di guardare meglio al futuro. E le dirò di più, questo nell'ambito della mia professione, cioè della gestione patrimoniale, utilizzare gli strumenti che ci sono già in parte di sostenibilità per scegliere i titoli permette di affrontare una gestione patrimoniale di più lungo termine e non solo quella che si riflette nelle prossime trimestrali, quindi confrontata con l'immediatezza della volatilità dei mercati. Ecco, questo sarebbe importante, guardare a lungo termine, qualcosa che manca soprattutto negli operatori finanziari che molto spesso guardano al breve, se non al brevissimo o al rapidissimo termine. Ecco, io vorrei concludere questa conversazione con lei, Vito Monte, con due domande su due paesi. Il primo lo cita in conclusione del suo libro, è la Svizzera, il secondo non ne parla perché questi contributi sono stati scritti prima, è la Gran Bretagna con la Brexit. Sulla Svizzera lei dice appunto che la Svizzera è un po' all'avanguardia nell'ambito della sostenibilità ambientale anche per la stabilità politica che ha. Riuscirà a superare anche come settore finanziario quello che è sicuramente un trauma come la fine del segreto bancario? Ma guardi, io penso assolutamente di sì, cioè se guardiamo la quota, cioè la piazza finanziaria svizzera si sta ridimensionando, su questo non ci sono dubbi, però sta aumentando anche di qualità e l'aspetto della sostenibilità contribuirà a incrementare questo aspetto qualità. Per la Svizzera spesso nel nord Italia si guarda il Canton Ticino, ma il Canton Ticino non è la Svizzera. Se lei guarda il resto della Svizzera, i grossi poli come Losanna, Ginevra, Zurigo, Basilea, c'è una componente importante in ambito di know-how sia industriale sia tecnologico, quindi e soprattutto c'è un sistema paese che funziona. Mettendo insieme tutto questo, sulla Svizzera non sono particolarmente preoccupato. E per concludere, la Gran Bretagna appunto sarà un trauma più per loro o più per l'Europa, oppure sarà comunque qualcosa che riusciremo in qualche modo a digerire? Rapidamente, Vito Monti. Guardi, finora è stato ci si aspettava il finimondo dall'uscita della Gran Bretagna, invece la paura che uscisse ha incrementato ulteriormente le politiche dell'allentamento monetario, quindi per ora abbiamo tirato il fiato. Cosa succederà dall'Inghilterra dipenderà da come reagirà l'Europa, cioè se l'Europa, sono convinto che riusciranno a trovare un accordo in cui l'Inghilterra in parte tra i piedi in due scarpe. Non dovrà essere un accordo troppo pro-inglese perché rischierebbe di mettere in pericolo l'intero contesto europeo, ma il problema dell'Inghilterra è il problema dell'Europa, i problemi di una non saranno i problemi dell'altra. Grazie Vito Monte, grazie di essere stato con noi questa sera, abbiamo parlato del libro L'incognita europea tra equilibri precari e sostenibilità planetaria, edito da Nimesis, sono 132 pagine per 12 euro. Grazie a Carmelo Lauricella in regia e a Luca Cremonese in redazione, l'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.